Kellogg, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Gioco forza che oggi anche a Melog parleremo di Lucio Dalla. La morte di Lucio Dalla ha completamente stravolto i palinsesti delle radio, delle televisioni, le impaginazioni dei giornali. Ciò significa che è una conferma di ciò che avevamo detto qualche giorno fa, che il poeta, l'artista, la persona eccellente, è tale si rivela nel momento della sua morte. Tutta l'Italia improvvisamente si è resa conto che manca un pezzo della propria esperienza, del proprio ricordo di ciò che ha segnato alcuni punti fondamentali negli ultimi decenni. Lucio Dalla può piacere, non piacere, può essere paragonato e confrontato con un'infinità di altri artisti, può essere quintessenziata la sua cifra artistica, è comunque una voce che a tutti noi è facilmente associabile a un pezzetto della nostra vita. Attraversato un numero considerevole di decenni, anni 60, anni 70, anni 80, anni 90, anche anni 2000, seppur con meno impatto emotivo, di Dalla abbiamo l'ultima immagine, l'ultimo festival di Sanremo, quando lui dirigeva la canzone di un giovane artista e già si vedeva che qualche segno lo dava del l'appannamento della figura centrale, l'artista, il cantante, è lui sul palco, lui canta, invece il dirigeva, aveva anche un certo tremore, qualcosa che denunciava un momento di non sommo splendore. Beh, questa mattina vorrei sentire dal pubblico quanto della vita di ognuno delle persone che mi ascolta è stata attraversata in momenti importanti, fatali o anche trascurabili, comunque degni di essere ricordati in questo momento, da una canzone di Lucio Dalla. Mi piacerebbe fare questa operazione perché Lucio Dalla in queste ultime 10-12 ore è stato attraversato, commemorato, celebrato, ricordato un po' da tutti i personaggi noti, addirittura questa mattina Fabrizio Rondolino sul giornale nota quanto tutti i politici della Seconda Repubblica, che avevano ben poco da dire negli ultimi frangenti, improvvisamente su Lucio Dalla hanno avuto tutti da dichiarare. Fa un esempio della dichiarazione postuma bipartisan in cui tutti l'hanno conosciuto, tutti ci hanno parlato, tutti hanno detto qualcosa, tutti insomma hanno avuto qualcosa in comune con Dalla. Ma il pubblico, le persone comuni come siamo noi, cosa possono dire e ricordare della loro vita legata a Lucio Dalla? 800 24 00 24. Da questo momento aspetto le vostre telefonate. Cantante preferito? Lucio Dalla. È il personaggio che considera più significativo nella storia della musica, in senso assoluto? Lucio Dalla. Sì, va bene. Ma un personaggio come Beethoven lo vogliamo ignorare? No, no, mica lo ignoro. Però Dalla è Dalla. La settima luna era quella del Luna Park. Lo scimmione si aggirava. Gianluca, senti il testo del bar. Un piccolo capolavoro. Mentre l'angelo di Dio bestemmiava facendo sforzi di petto. Grandi muscoli e poca carne. Povero angelo benedetto. Alfredo Saitto, buongiorno. Buongiorno. Questa mattina mi faccio accompagnare da una guida, da una persona che ha conosciuto Lucio Dalla, ha collaborato a lungo con Lucio Dalla nell'RCA, e Alfredo Saitto, che è uno, oltre a essere un amico, dei più autorevoli esperti musicali italiani, da anni scrive e commenta e segue la musica italiana, è un giornalista, è un saggista, è un autore televisivo, l'abbiamo già avuto ospite varie volte nella nostra missione. Alfredo Saitto, se dovessimo raccontare e circoscrivere nello star system, anzi nei grandi autori, cantautori degli ultimi decenni, Lucio Dalla, lascia veramente un vuoto, e il suo vuoto a quale periodo della sua produzione artistica maggiormente secondo te è riferito? Allora, Lucio Dalla secondo me è nella categoria dei cantautori la punta che unisce i cantautori ai musicisti, forse è il più musicista di tutti, a differenza di tanti altri che hanno sempre privilegiato il testo. Quindi Lucio è fondamentalmente un musicista, un grande performer, ha lasciato, secondo me, una serie di canzoni meravigliose che vanno dal momento dello sdoganamento ufficiale di Lucio Dalla. Quando è stato? Diciamo quando ha fatto il Festival di Sanremo con la canzone con la data della sua nascita. E lì, bene o male, ha avuto il successo popolare. 4 marzo 43, esattamente. Che poi un altro dei paradossi che spesso si possono sostenere, è morto il 1 marzo, tre esatto. giorni dal suo compleanno. Esatto, 69 anni, quindi anche giovane. E non dava segnali di malattie, nel senso che si era un po' defilato, ma in realtà poi la sua attività la teneva lo teneva molto occupato. Lucio a mio avviso ha avuto il momento di splendore massimo nel momento in cui ha collaborato con uno straordinario poeta intellettuale che è Roversi. Roversi è un filosofo, un personaggio straordinario che viveva a Bologna, e nella sua libreria di libri antichi, pieno di polvere, di cose, ha scritto delle canzoni, le canzoni forse più belle di Lucio. Quindi le parole, diciamo, il testo poetico, sì, maggiormente ricordiamo, e lo ricordiamo perché interpretato e musicato da Dalla, era opera come Roversi. Profondo il mare, l'anno che verrà e tantissime altre, ecco, Nuvolari, sono tutte canzoni di Roversi. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. Buongiorno Claudia, prima ascoltatrice. Buongiorno, senta, io ho un ricordo particolare legato a una canzone di Lucio Dalla che si chiama L'anno che verrà. Scusi, abbiamo perso un attimo per uno sgancio telefonico. L'anno che verrà. L'anno che verrà, eccoci, stiamo ascoltando. Sì. Perché a me... No, Claudia, prima ascoltatrice, sente malissimo, richiamatela. Sentiamo Giovanni. Buongiorno dottor Nicoletti. Ecco, questa è la qualità almeno della telefonata si sente. Io mi unisco al dolore di molte persone che come me hanno amato il grandissimo Lucio. Però posso dire una cosa, perché sì, io di vedove ne ho viste sin troppe in queste ultime ore, non voglio sembrare cinico. Quando muore un grande artista, è il momento della sua gloria, non è un momento di dolore. È un momento, finalmente un artista entra nell'Olimpo degli immortali. Ho visto sin troppi in queste ultime ore di volti contriti, di facce di circostanza. Siamo qui a celebrare la gloriosa risurrezione di un artista nella sua musica che rimarrà nel nostro ricordo. Vorrei impostarla così, se no vale per chiunque. Quindi in questo momento cos'è che lei gioiosamente dà l'idea che Dalla ormai fa parte della sua vita, ha fatto parte della sua vita? A parte i grandissimi successi che... ancora rimombano nella mia ma c'è un momento della sua vita che lo associa a una canzone? Nella mia vita io Dalla l'ho scoperto, diciamo, a metà degli anni Ottanta, l'ho riscoperto e soprattutto l'ho apprezzato soprattutto per determinate canzoni tipo Piazza Grande, che oppure anche, non so, stessa Milano o altre canzoni, Anna e Marco, che secondo me sono delle vere e proprie poesie, dei capolavori anche musicali, squisitamente musicali. Soprattutto Piazza Grande mi ha colpito tantissimo per il suo messaggio rivolto a tutti, diciamo, a tutti i deboli e le persone, tra virgolette, sconfitte da una vita che in certi momenti le soverchia. Ecco, niente. Grazie Giovanni, grazie Giovanni. Gianluca. Gianluca io? Sì, Gianluca lei, non io ho già parlato. Io vi ascolto, ora appunto ho recepito il suo appello così di dare una testimonianza riguardo al personaggio Lucio Dalla. A me in qualche modo lui rimarrà per tutta la vita, in quanto, diciamo, una delle sue canzoni ha ispirato il nome di mia figlia si chiama Futura, e niente, era quindi soltanto telefonato per dare... Resti solo in ascolto. Chissà, chissà, domani, su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa. Gianluca, cosa l'ha colpito in questa canzone per darle il nome alla sua figlia? Diciamo che io sono del 63, per cui magari il futuro, l'anno 2000, lo vedevo così come una... nella mia infanzia l'ho vissuto come un sogno, così. E poi invece mia figlia, che nasce alla fine del secolo, del 96, e che quindi... avrebbe vissuto la sua vita in quel tempo che per me era un sogno, mi ricordo. Ecco, ieri sua figlia come ha reagito alla morte di Dalla, visto che ne rimarrà impresso un segno comunque lei per tutta la vita, ci si chiama come una canzone di Dalla. Ma diciamo, mia figlia, sicuramente Lucio Dalla non è il suo cantante preferito al quale si ispira particolarmente, però quindi gli rimane addosso questo marchio dato dal padre, di cui lei è abbastanza orgogliosa del suo nome, per quello che mi dà a me. Beh, così, almeno è legata a una bella canzone, no? Nel senso, per sì, fortuna, Alfredo Saitta. È legata a una delle più belle canzoni della musica italiana, quindi è una canzone particolare. Sua figlia potrà andare da fiera di essere legata a un... Su questa canzone qualcosa a dire, Alfredo, su Futura? Ma sai, Lucio non scriveva facile, musicalmente. Non era, aveva un meccanismo di scrittura estremamente sofisticato. Se ci facciamo caso, gli incisi, le strofe, insomma, erano piene di idee orecchiabili, ma non erano strutturate nella semplicità del pop italiano. Se ci facciamo caso, le canzoni erano molto strutturate, molti dei suoi brani cambiavano ritmo due volte, tre volte, cosa che è la negazione della canzone pop, no? Che deve partire in un modo e arrivare allo stesso modo. Lavoro. Assolutamente, ma lui era preparatissimo a livello musicale, e tant'è vero che poi ad un certo momento, quando è subentrato il mestiere nella scrittura delle canzoni e quindi probabilmente ha perso quel sacro fuoco della creatività, si è trovato a fare tante esperienze. Pierino e il lupo, fatta da Lucio Dalla, ha musicato i Salmi, si è molto legato alla musica lirica, all'opera, il duetto con Pavarotti. Insomma, erano le cose che più si vedevano ieri in televisione, gli aspetti eclettici, gli aspetti, certo. Perché anche quelli colpiscono di più. Abbiamo recuperato Claudia. Buongiorno Claudia. Ecco, adesso si sente buongiorno. Bene. Stavo appunto dicendo che il mio ricordo è legato a una canzone che si chiama L'anno che verrà, che abbiamo fatto sentire. La mia mamma non è una grande ascoltatrice di musica, però quando io ero piccola, quindi negli anni 70, e volevo aiutarla a fare le pulizie di casa, lei metteva questa canzone, mi dava uno straccio in mano e insieme, diciamo che l'aiutavo fra virgolette, perché insomma ero molto piccola. E quindi quando ieri sera alla televisione ho sentito questa canzone, mi è venuto in mente proprio questo ricordo, legato proprio al discorso delle pulizie di casa. Cioè lei metteva sempre questa musica quando doveva pulire. Non so perché. Era l'unica canzone che ascoltava, proprio di... Come vedi, però vedi, c'è un imprinting dato a una canzone Dalla. Per lei la canzone L'anno che verrà è il giorno... È il sintomo di prendere lo straccio mano e pulire. Non so quanto questo possa servirle nel suo cammino di emancipazione dal canovaccio e lo spazzolone, però è qualcosa. Mi ricorda Alfredo Saitto, un ascoltatore tramite SMS, vero, che Dalla cantava la sigletta di Gulp fumetti in TV. Dice, certo. Non se l'era mai ricordato nessuno. È vero, era è vero, bellissimo. È vero. Era il periodo in cui cantava le canzoni tipo Puff Boom, fumetti, che era meraviglioso. C'era Gulp, uno dei programmi più felici della Rai, sì, in cui fumetti in TV, c'era Nick Carter. La Rai fece un programma dedicato ai fumetti in TV, che era una cosa modernissima per i tempi. E Lucio Dalla cantava la sigla. Puff Boom. tuffo in fondo al cuore. Oh, oh, oh. Babbo, l'amore mio sei tu. Babbo, è stato all'improvviso. Oh, oh, oh. Babbo, e non ragiono più. Alfredo, invece questo puff boom era la parte sì. iniziale, era il periodo in cui lui frequentava l'RCA, veniva da esperienze jazz Dixieland, non era proprio un cantautore, stava cercando la sua strada, era molto alternativo, tant'è vero che tutto il primo periodo dell'RCA Lucio Dalla era per certi versi quasi una missione impossibile, perché era impresentabile, basso, pelato, capelli lunghi, barbone, cioè non aveva il look da musicista pop. A te, Alfredo, si deve un'idea di marketing di Dalla abbastanza geniale. No, a un certo punto, a forza di dire, ma Lucio sempre con questa faccia, allora erano un paio d'anni che Lucio si presentava sempre con questi cappellini di lana. Prima del parrucchino di Cesare prima Ragazzi. Prima del parrucchino. Com'è questa debolezza, secondo te, del parrucchino? Poi l'ammette, diciamo, è una delle sue debolezze che non aveva problema a dichiarare. È la stessa debolezza di Elton John. Ad un certo momento, lo stesso parrucchino aveva di Elton John. Sì. Forse Elton John con un pochino più lunghi, perché Elton John gli piace mandare i capelli al vento. Beh, al periodo dello zuccotto, allo zuccotto e gli occhialetti. E allora, a un certo momento uscì, dovevamo decidere all'interno tutti quanti quale fosse il, e quindi tirammo fuori un po' di idee, e l'idea era quella di fare una copertina del disco soltanto con il cappellino di lana e gli occhiali tondi tipo Elton John, che senza Dalla, il disco senza la faccia di Dalla. E addirittura mi ricordo che in una fabbrica di carpi facemmo produrre un sacco di cappellini di lana e li regalammo a tutti i giornalisti che andavano in giro con questi cappellini di lana come fatto promozionale, e addirittura nei negozi facemmo un cartonato di Lucio mettendogli il cappellino in testa, e quindi insomma fu questa operazione diciamo di marketing su un artista che comunque aveva una forte ironia, una forte voglia, una curiosità. Lui è sempre fatto tutto, se parlavi di arte gli piaceva l'arte contemporanea, aveva una galleria d'arte, è uno dei più grossi collezionisti di giovani artisti italiani. Ecco, questo è un altro dato inedito che ieri non ne ho sentito parlare. Come no, aveva una galleria a Bologna, e tra parentesi lui dal 1980 ha incominciato a dare grande spazio ai giovani talenti, giovani pittori e giovani artisti, e se andavi a casa sua o al suo studio a Bologna è pieno di quadri meravigliosi, anche di artisti che poi sono diventati qualcosa. Adesso basta sangue, ma non vedi, non stiamo nemmeno più in piedi, un po' di pietà. Invece tu, invece fumi con grande tranquillità. Così sta a me che devo parlare, fidarmi di te. Questa è la canzone che per Alfredo Saitto è l'ultimo grande capolavoro di Dalla. Sì, che secondo me dopo succede che negli artisti prende il sopravvento il mestiere, e non si ha più il sacro fuoco di soffrire per scrivere una canzone, no? Si diventa un po' passivi nei confronti della forma e non più della forza di comunicazione delle canzoni. E quindi per me Enna è l'ultima grande canzone che ha scritto, poi dopodiché diciamo che è stata routine. Ecco, la produzione di Lucio è stata routine, forse non rimarrà come i capolavori che ha scritto. Beh, sai, poi è il tempo che seleziona, quando un artista scompare rimergono i grandi capolavori, gli altri diventano oggetto di studio. Pochi sanno che lui aveva fondato un fan club di un artista americano, Prince, cioè lui era pazzo di Prince, ma proprio col fan club a Bologna. Cioè, e lui ha fondato il fan club? Ha fondato il fan club di Prince, e ad un certo momento gli piaceva talmente tanto che riarrangiò tutte le canzoni con la musica elettronica alla Prince. Dunque, vedo molti ascoltatori stanno telefonando che l'hanno conosciuto di persona, incontrato. Emiliana, ad esempio. Buongiorno, io sono nata negli anni, la metà degli anni 50, e quindi la mia prima esperienza con Lucio Dalla è stata un incontro in una casa del popolo vicino a Firenze, e ricordo che mi colpì tantissimo, e ieri quando ho preso, diciamo così, la sua morte, la notizia della sua morte, e inevitabilmente sono tornata con la mente a quel momento lì, e mi ha fatto piacere, non chiaramente la sua morte, ma averlo conosciuto in un momento, diciamo che quindi erano gli anni 70, ancora sì, era famoso, ma non così. Poi chiaramente i ricordi delle canzoni sono tantissime, se ne potrebbe dire tutte, perché amo Lucio Dalla, è impossibile secondo me non amarlo. Beh, però no, ecco, possibile, ricordo, è anche possibile, uno può anche non amarlo. Certo, per me è no, perché non vorrei, ovviamente, per gli altri lasciamo un margine anche chi può non amare le persone. Certo, certo. Non saremo assolutisti. Ovviamente, però per me Dalla è legato a quel ricordo di quel pomeriggio in questa casa del popolo, dove appunto per me il mio ricordo è quello. Ma cosa, l'ha visto, ma avete parlato, cosa avete fatto? Vi siete sì, sento che sa, cioè, pochissime persone, per cui era una piccola casa del popolo dove il pomeriggio si ballava, e avevano invitato Lucio Dalla per cantare, lui veramente, poi abbiamo parlato, eravamo anche tra l'altro poche persone, non è che era una grande folla, quindi era una cosa ottima. E questo, cioè, io La commozione e il tono della telefonata mi fa venire in mente la famosissima scena del film Borotà, con cui Verdone, per avere la benevolenza della fan appassionata a Lucio Dalla, finge di fronte a una volotta di star a parlare con Lucio Dalla. Ciao Lucio, come va? Non ti scomodare, alzati. E dentro naturalmente non c'era nessuno. Ci fermiamo un istante soltanto per dare a Lina l'informazione della borsa, poi riprendiamo con Alfredo Seitto a parlare con gli ascoltatori di Lucio Dalla. Melog, la realtà condivisa. Vita in te ci credo, le nebbie si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' sdrucita. Vita, io ti vedo, tu così purissima, da non sapere il modo, l'arte di difendermi. E così ho vissuto, quasi rotolandomi, per non dovere ammettere d'aver perduto. Alfredo Saitto, Vita di Lucio Dalla. Ricordo Alfredo Saitto, che è un esperto musicale italiano noto, scrive saggi, scrive libri, è un autore televisivo, ma ha collaborato soprattutto con Dalla a lungo, ai tempi in cui lavorava all'RCA. Beh, non tanto io, che mi occupavo degli stranieri, ma c'era tanta gente, però comunque lavoravamo tutti per gli stessi artisti, e quindi con Lucio avevo avuto a che fare. E su Vita mi faceva piacere ricordare uno spettacolo meraviglioso, una tournée meravigliosa che fece Lucio insieme a Gianni Morandi, e insieme, era una accoppiata vincente, con la regia di Salvatores, poi mi ricordo, coinvolsero Salvatores a fare la regia dello spettacolo, e fu uno spettacolo che girò tutta l'Italia su un'isola, era una sorta di isola, un palco a forma di isola, molto fantasioso, e con il coinvolgimento di Mogol, che ha scritto Vita, che è il testo. Se vogliamo cogliere qualche singolarità, è singolare che l'ultima grande apparizione pubblica di Dalla Sanremo era proprio assieme a Morandi, e in fondo non è che si sono detti molto in quel festival di Sanremo, sono stati molto a distanza, che Morandi poi ha cantato con Celentano, ma l'ha semplicemente presentato Lucio, fra di loro non c'è mai stato, è anche singolare questo, non c'è stata nessun tipo di interazione. Stessa casa discografica da sempre, perché erano RCA tutte e due, facevano i cantagiri insieme, quindi insomma parliamo degli anni 60, tournée di Bologna tutte e due, fissati, devo dire, Gianni più fissato per il calcio e invece Lucio fissato per la pallacanestro, la Virtus per lui era insomma, infatti ci sono molte fotografie di lui con i giocatori di pallacanestro, lui alto giocando sul paradosso certo. Fissato per, però comunque appassionato di sport. Sentiamo Silvia, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io ho due ricordi splendidi. Intanto è stato il cantante che io ho amato di più in assoluto. Io sono nata nel 50, quindi più o meno abbiamo la stessa età. Quindi ho tutti i dischi, dal vinile al CD, passando per le audiocassette. A darla in tutti i supporti. Sì, sì, sì, quindi magari le stesse canzoni rivisitate, insomma. Quando avevo 18-20 anni, quindi stiamo parlando del 68-70, ero al mare a Cervia e andai a un concerto a Milano Marittima e mi fece l'autografo sulla cassetta di Anidride Solforosa. Ed eravamo quattro gatti, devo dire che non erano gli anni in cui, insomma, era poco seguito. Quindi eravate un pubblico selezionato rispetto alle mode del tempo, sì, avete un gusto non un allineato, un po' rivoluzionario, sì, insomma, un po' ribelle. Io sono una che ha fatto il 69, non si dice il 68 perché io c'ero ed era il 69, quindi non era il 69. Sì, ma lo comunque fanno in tanti. No, nel senso che si sbaglia l'anno. Ma poi quando è uscita Rondini, il Garrire l'ho messo nella mia segreteria telefonica a casa. E l'ho rincontrato 3 anni fa a Malta, il mese di maggio, ero a visitare la città di Medina, la città silenziosa, la vecchia capitale di Malta, avevo un tramezzino in mano e visitavo queste mura antiche, una città meravigliosa, e l'ho incontrato. E ho una foto in cui siamo abbracciati e lui che mi diceva: con tutte queste bellezze intorno di questa città meravigliosa tu stai mangiando. Dico: ho anche fame, insomma. E lui si è ricordato della balera dell'incontro a Cervia? No, assolutamente no, perché nel frattempo erano passati 40 anni e ho questa foto in cui sono abbracciata a lui con una tartina in mano e ieri, insomma, sono stata proprio male perché... Voglio dire, è più che uno di famiglia. Ecco, per lei è una fetta della vita, veramente, concretamente, realmente. Stava in barca con la sua barca che si chiama Catarro. Catarro? Sì, la barca di Lucio Dalla. Catarro. Ma c'è qualche motivo? Beh, lui gli piacevano questi nomi un po' che suonassero. Catarro con la K, poi, Catarro. Sentiamo Anna. Buongiorno Nicoletti, sono Anna. Io ho conosciuto Lucio Dalla perché ho conosciuto mio marito in una discoteca in Grecia che si chiama Marco, e in quel momento suonavano proprio questa canzone, Anna e Marco di Lucio Dalla, e quindi è praticamente la nostra canzone, è la canzone che noi mettiamo quando nei momenti difficili, nei momenti allegri, anche i nostri figli la conoscono. E ieri mattina è stato praticamente un lutto quasi familiare, perché era un zio che ci ha accompagnato, ne siamo 25 anni che siamo sposati, ci ha accompagnato in questa nostra vita, e sarà sempre così, insomma. Questo è il ricordo più bello che ho del Lucio Dalla e ce lo porteremo sempre nel cuore. Anna, come sono tanto Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi lei lo sa, stella di periferia. Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella. Ecco, questa è la canzone che ha determinato l'incontro fatale di Anna e Marco, nostra ascoltatrice ancora se la ricorda. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Allora, io vivo a Milano, però sono cresciuto, nato e cresciuto a Bologna. Non avevo dubbi su questo, sentendo. Senta, volevo dire questo, io Dalla l'ho visto poche volte in vita mia, però è sempre stato molto presente. A Bologna, io che so, ho 45 anni, era il mito, cioè ho visto Dalla in quel posto. Io mi ricordo un episodio che ero in un ristorante, ero a lavarmi le mani, venne una ragazza e mi disse, una ragazza si lavava le mani insieme a me, era una studentessa che veniva da fuori, perciò non conosceva, e dice, ma lo sai che, senza che io la conoscessi, ma lo sai che Dalla è omosessuale, se la fa con Ron. E io avevo 16 anni, non dico che era sulla voce di tutto, questa anche il fatto che era omosessuale ma si sapeva, non si sapeva, questo era meraviglioso di suo. Beh, diciamo, ieri Grillini ha fatto un bel ricordo di Dalla come persona molto sensibile alle problematiche omosessuali. Dalla non ha mai voluto apertamente dichiarare se, come, dove, quando, non è che la cosa ci interessi molto. No, ma infatti la cosa bella era proprio questa, era che era più interesse degli altri, lui assolutamente era al di fuori di queste cose, era una persona, io ho avuto tantissimi amici che gli hanno mandato le loro canzoni, le strimpellate, e lui ha moltissimi, non dico a tutti, ma moltissimi ha risposto, li ha chiamati, si sono visti per strada, è voluto che qualcuno gli cantasse le canzoni, era di una generosità imbarazzante. Ecco, Alfredo Saitto, mi sembra aver capito, lo percepisco alle telefonate degli ascoltatori, che Dalla non fosse uno che si risparmiava verso il pubblico. Assolutamente no. Non è questi che vivono nelle loro torri d'avorio con i bodyguard intorno. C'è stato un periodo che viveva a Roma, cioè aveva una casa vicino a Viale Trastevere, dove, vicino al Cinema Reale, e lui si era impossessato delle strade di Trastevere. Ma io a Roma l'ho visto anch'io passeggiare spesso. E viveva lì, amava moltissimo Roma e poi Bologna, ovviamente. Invece i rapporti con i potenti? Ma diciamo che Lucio, quando prima hai dato la notizia della rincorsa, sì, lo dice Rondolino questa mattina, alla dichiarazione di tutti i politici della Seconda Repubblica. In realtà loro veramente hanno perso un'altra occasione per poter stare zitti, perché in realtà Lucio Dalla diciamo che con la Seconda Repubblica non c'ha avuto mai nulla a che fare. Nel caso si è esposto moltissimo nel periodo della Prima Repubblica, essendo socialista, amico di Craxi. Bobbo Craxi andava a suonare la chitarra in tournée con Ron. Sì, infatti, quindi... Stefania Craxi dice, il giorno che morì mio padre, Dalla gli dedicò il suo concerto a Milano. Esatto. Quindi non nemmeno tradì, diciamo, come fecero tanti. No. Assolutamente. Lui era molto legato per amicizia, nel senso proprio in realtà, e perché poi come uomo di sinistra aveva scelto il socialismo, e quindi ovviamente come tanti hanno erano tantissimi che lo scelsero. Certo, allora, ecco. Esattamente. E quindi c'è questa sua. Sentiamo Ginevra. Sì, buongiorno. Sì. Allora, io volevo ricordare una canzone che si chiama Cara, a cui sono particolarmente legata, ed è una canzone che piace moltissimo sia a me che a mio marito, e quindi diciamo che ha un valore affettivo particolare. È una canzone di cui non si parla mai, che secondo me è proprio una poesia, sia dal punto di vista del testo musicale, sia dal punto di vista invece proprio del testo, delle parole. Per cui... Ecco, perché questa canzone la lega a suo marito? Cosa ha in comune? La lega a mio marito perché è una canzone che ci unisce e che ci commuove allo stesso modo, quindi c'è una sintonia di sentimenti completa. Ed è una canzone che peraltro lui mi dedicò a un concerto che fece allo Smeraldo a Milano, non mi ricordo quando, insomma, ma il giorno prima della mia laurea, ed era un periodo in cui ero un po' depressa, ero stanca, ero affaticata, ed era un momento di passaggio, no? Della vita, e durante l'intervallo andai dal fonico e chiesi se era possibile chiedere appunto a Lucio di cantare questa canzone, e lui mi rispose, in genere lui i bis non li fa mai, quindi bis, insomma, le canzoni non dedica quasi mai, o non lo fa più, insomma, canzoni al pubblico. Invece poi tornò e gliela fece. E me la fece dicendo, c'è questa ragazza che poi mi dicono anche splendida, eccetera eccetera, che ha chiesto questa canzone, una canzone molto sentimentale, visto che la laurea è un momento così importante della vita, sono contento di potergliela dedicare. Vediamo adesso se possiamo sentire Guido, poi diamo la linea al traffico. Guido. Pronti? Sì, ecco, lei ha incontrato anche lei Dalla, tutti incontrano Dalla. Ma no, non lei che lo vedevo, l'ho visto a Riccione su una vecchia Ducati, e la guidava sempre. Però un'altra cosa volevo dire, una canzone che non ha citato nessuno, Quando ero soldato. Vero. È vero, sì. Lei pensa che molte canzoni, noi questa mattina siamo attrezzati con il maggior numero possibile, molte non abbiamo nemmeno fatto in tempo noi a reperirle, perché il repertorio è molto vasto. Poi mi vede, lei perché Quando ero soldato invece è per lei significativa? Beh, Lucio Dalla militante. Perché è così, perché ovviamente stavo per andare a militare. E quindi era legata alla, alla sua esperienza di Naia. Ecco, e poi io l'ho visto Lucio Dalla suonare in un piccolo cinema di periferia a Milano che si chiamava Araldo, adesso è una sala bingo. E senta Guido, ci fermiamo, resti col suo ricordo sospeso, perché ci fermiamo un istante, diamo le informazioni del traffico, se no facciamo troppo tardi, poi la riprendiamo e ci continua questo suo racconto di Dalla che cantava in un piccolo cinema. Melog, la realtà condivisa. Ecco, avevo interrotto la telefonata dell'ascoltatore Guido, che in questa mattina in cui stiamo dando la voce agli ascoltatori per ricordare i momenti a loro vita che hanno avuto un significativo e intenso apporto dalla presenza a Canora e anche presenza fisica, molti hanno parlato di incontri di Lucio Dalla. Guido si ricorda un concerto in un piccolo cinema. Guido. Sì, sono qui. Con chi stava suonando Dalla in quel giorno? Ah beh, aveva un suo gruppo, adesso non ricordo. Erano sempre era in stadio, da solo con una band. E le ripeto, il cinema si chiamava allora Araldo, via Lorenteggio. Che anno era? Che anno era, Guido? Più o meno. In modo il 70. Sì. L'Araldo era un posto dove si facevano i concerti all'epoca, Ma no, era un cinema. Sì, sì, però era un posto che a Milano era diventato un luogo non di riferimento, perché non è che la moda dei concerti era tanto diffusa, quindi si cercavano nuovi spazi per suonare e l'Araldo era diventato per un periodo un punto di riferimento. Ecco, no, non è paragonabile, diciamo, al attuale sistema di diffusione, di nascita e crescita di un cantante. Non c'erano i talent show, non c'era la televisione ancora. Non c'erano le radio. Non c'erano nemmeno le radio private o pubblico libere, come si chiamavano allora. Quindi quali erano i sistemi per farsi conoscere? I sistemi per farsi conoscere era l'ufficio stampa, andare a suonare dal vivo e sperare di essere presi in televisione. Sei tu. Un Latin lover con la faccia da Beethoven, dentro un paletò se non mi sbaglio, blu. Sotto i capelli bianchi, sotto i colori stanchi, del cielo parlava. Fra i tanti ascoltatori, ho detto stamattina, avremmo sentito persone comuni, però c'è una persona un po' meno comune degli altri, perché lui, anche lui è un artista che ha voluto chiamarci oggi e darci un suo contributo. La canzone che sentiamo è Latin Lover, in cui parte precipua ha avuto anche Marco Masini, che abbiamo al telefono. Masini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, come era nata? Come era nata l'idea di questa canzone? Come il percorso artistico che l'ha determinata? Ma diciamo che erano gli anni 90 e io fui coinvolto da lui in maniera in modo molto umano, perché al di là dell'aspetto artistico, al di là dell'aspetto canoro, mi coinvolse proprio nella canzone a livello emozionale e provammo a farla insieme in questa trasmissione degli anni 90, appunto, sulla Rai, e nacque un rapporto bellissimo, veramente basato sull'emozione pura e anche un po' sull'improvvisazione, perché poi ci divertimmo col piano armonizzarla come volevamo noi, come ci riusciva meglio, come veniva al momento. Qual era il clima che descriveva? Era un po', diciamo, questa figura in via di scomparsa, che era il Don Giovanni di Riviera. Beh, diciamo che era affascinante già di per sé stesso vederlo con me in quel momento, ed era un artista al di sopra di tanti altri, e l'abbiamo visto comunque a Sanremo ultimamente, quando è entrato lui, insomma, c'è stato il vuoto, è arrivato, cioè lui ha dato tutto rispetto a un vuoto che comunque la musica italiana sta producendo ultimamente, perché al di là del fatto che ci sono molti ragazzi molto bravi, ma molti artisti non ce ne sono, e molti cantautori neanche. Io ricordo che comunque lui ha dato un'impronta vera, artistica, cosa che non si sente più da tanto tempo in quella versione lì. Cioè, questa è un po' anche l'idea che... su cui mi confrontavo prima con Alfredo Saitto, che è qui in studio con me. Sì. È possibile, Alfredo, fare un piccolo e velocissimo paragone, visto che oggi la trasmissione è dedicata al ricordo, fra l'eclissi del gusto musicale in Italia rispetto appunto alla musica leggera, alla musica anche d'autore, e diciamo la parabola artistica di Dalla? Non è casuale che Marco Masini e Lucio si siano incontrati su una canzone, perché poi, tra parentesi, sono due musicisti, Lucio e Marco sono due musicisti che cantano, hanno una vocalità che si fa riconoscere tra mille. Il discorso sul concetto della musica è abbastanza preoccupante. Io credo che oggi ci siano intere generazioni che non siano più abituate ad ascoltare il suono vero. Con l'avvento del CD, insomma della musica digitale, si è persa la cultura dell'alta fedeltà, e quindi di conseguenza si è perso come si dice, la visceralità della musica. Guarda, non a caso noi stiamo parlando di un artista che comunque ha lasciato tracce profonde. Ci sono persone che vanno di generazioni dai 60 ai 25 anni che ci hanno chiamato, dice, un periodo, un momento, un giorno, una fase della mia vita è legata a questa canzone. Fra 100.000 anni, quando alla radio qualcuno al posto nostro parlerà della scomparsa di Emma, quanti telefoneranno per dire è stato un momento fondamentale della mia vita? Perché queste canzoni non rimangono, le canzoni che vengono fatte oggi non possono rimanere, perché vengono spremute come dei limoni. Nel momento in cui tu la senti la prima volta e dopo qualche mese senti la suoneria del cellulare trasformata in canzone, vuol dire che quella canzone è finita. Sentiamo Luigi. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Senta, allora, per me è un'emozione sentire. Quindi, niente, io ho conosciuto Lucio Dalla fin dall'inizio degli anni 68, 70, io sono un pittore, tutti i miei quadri sono ispirati alle musiche di Lucio Dalla, io l'ho conosciuto poi nel 71, abbiamo cenato insieme, gli ho chiesto anche il cappello e lui mi disse no, perché l'ha fatto mia madre, perché questo discorso qua. Il cappellino di lana famoso. Sì, il cappellino di lana, sì. Fu una cosa eccezionale. Quindi conferma che Dalla era, diciamo, un appassionato d'arte, automusicista. Sì. E io proprio l'ultimo quadro che ho fatto, mi sono rifatto un verso di una canzone, l'ultima canzone, dove lui dice mi dondolavo a un ramo a testa in giù, dove la terra si confondeva con il cielo. E di là ho iniziato a fare un quadro che secondo me è bellissimo e lo dedico proprio, lui mi ha ispirato, io è come se sono morto io con Lucio Dalla. Certo, noi far vedere un quadro in radio diventa complicato, però poi questa mattina abbiamo dato un'idea comunque di quella che è una teoria su cui stavamo ragionando con Alfredo. Un grande artista si nota e si capisce quando lascia delle tracce profonde nella storia, nelle generazioni. I grandi artisti che oggi vengono acclamati come tali sono una forma di arte transeunte, un'arte usa e getta. Non è detto non faccia parte del nostro epoca, ma è questa la definizione. Grazie Alfredo Saitto, grazie per avermi telefonato. A domani.